19 dicembre, seconda parte. Vabbè, allora, la linguistica moderna nasce tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e insomma, il Novecento è stato il secolo più ricco di riflessioni sul linguaggio che ci siano mai state. Naturalmente l'uomo ha sempre parlato del linguaggio, ma c'è sempre stata da un certo punto di vista una riflessione sul linguaggio. Però per esempio nella cultura occidentale ci ha messo un po' prima di emergere una ricerca specifica sul linguaggio inteso anche solo come strumento proprio, insomma, cioè per dire, insomma, per la tradizione indiana dell'India, per esempio, ha una ricerca, cioè produce delle grammatiche della lingua hindi molto prima di quanto il greco non ha mai prodotto una vera grammatica della propria lingua, non c'è una grammatica greca fatta dai greci, diciamo, nell'epoca classica. I romani invece hanno costruito, sì, per allora lì la grammatica, però siamo già più tardi, insomma, alcuni secoli dopo. Insomma, in qualche modo le prime vere riflessioni sul linguaggio si hanno fra 500 e 600. Nel 600 in Francia in modo particolare, e però non a caso, vedete, se siamo sempre lì. Allora, in Francia per esempio la scuola linguistica più rilevante nel XVII secolo, quindi in un ambiente che potremmo dire, insomma, in un'epoca cartesiana, perlomeno questo è il termine poi che hanno usato alcuni linguisti contemporanei, moderni. Allora, nella Francia del XVII secolo il centro della ricerca sulla lingua, insomma, è la scuola dei gesuiti di Port-Royal. La grammatica di questi gesuiti di Port Royal producono nel XVII secolo, cioè hanno due filoni di indagine, praticamente, uno grammaticale e non a caso e uno logico, quindi fanno sia una grammaire generale, sia una logique generale, una grammatica generale e una logica generale, tutte e due dovute poi principalmente, il personaggio principale si chiama Arnaud, però c'era una creazione, è stata una creazione collettiva, insomma. Arnaud, io lo si chiamava il nome, poi con l'Ottocento si sviluppa poi nel XVII secolo, insomma, l'Illuminismo ha una serie di riflessioni, però nel XVIII secolo del Settecento diciamo che quelle che le cose più interessanti sul linguaggio le scrivono dei personaggi un po' dei filosofi, insomma, principalmente, per esempio Rousseau e Vico. Sia Rousseau scrive un libro molto interessante, totalmente sballato come tesi, ma molto interessante, sull'origine del linguaggio, si chiama Saggio sull'origine del linguaggio, Essai sur l'origine du langage, in cui mette in relazione l'origine, vabbè, insomma, con la musica, è un'ipotesi, insomma, che lui sviluppa in un modo. E l'altra persona importante è Giovan Battista Vico, che dice delle cose interessanti nella scienza nuova. È un filosofo napoletano, Vico, molto appartato, poco noto ai suoi tempi, che poi è stato rivalutato dai romantici un secolo dopo, nell'Ottocento, insomma, 50 anni, 60 anni dopo. Nell'Ottocento la linguistica si sviluppa prevalentemente come linguistica storica e comparata. E, però diciamo il metodo complessivo che sta dietro a queste ricerche linguistiche dell'Ottocento è un metodo che diciamo risente quindi del clima, diciamo così, del positivismo, quindi della volontà di andare a cercare, studiare dei fatti specifici, eccetera, eccetera, da un lato. Dall'altro però con questo mito, con questa idea fissa, insomma, dell'origine. L'origine del linguaggio è stata da sempre un chiodo fisso, anche quando manca una riflessione generale o una vera e propria linguistica, insomma, ci sono tante le culture. Però in genere qualche idea sull'origine del linguaggio c'è sempre stata. Umberto Eco ha ricostruito questa storia dell'origine del linguaggio da un punto di vista, direi, giusto, in questo senso. Una volta tanto ha scritto un libro anche utile, che si chiama La lingua di Babele, in cui, che, insomma, la storia di Babele tutti la sapete, insomma, anche diciamo, il racconto mitico di Babele che stava nella Bibbia, in realtà esprime una cosa che è, come dire, diffusa un po' in tutte le culture, cioè andando indietro, ma da dove ha origine il linguaggio, da dove comincia, i grida degli animali, le grida, eccetera, oppure la musica, come diceva Rousseau, eccetera, eccetera, va indietro e alla fine dice, ma allora vuol dire che ci deve essere stato un periodo in cui l'umanità parlava una sola lingua. Quindi questa mitica, ci deve essere una lingua originaria, che è esattamente la storia che racconta la Bibbia, gli uomini parlano tutti la stessa lingua, bla bla bla, e che però nella Bibbia è collegata con, diciamo, l'orgoglio, insomma, con la, i greci avrebbero detto con la cibris, e quindi insomma vogliono costruire questa torre di Babele. Uno dice, ma perché, cosa c'entra la torre di Babele con la lingua unica? Insomma, dietro ci sta l'idea che se Dio non avesse in qualche maniera, come dire, punito gli uomini, no? Con una via di seconda, come dire, punizione dopo la cacciata dal paradiso terrestre, li ripunisce per la seconda volta, mandando il fulmine che butta giù l'empia torre di Babele, come dire, indicatrice, insomma, simbolo dell'orgoglio umano smisurato che vuole confrontarsi con Dio e diventare simile a Dio, e quindi con questo fulmine poi distrugge anche l'unitarietà delle lingue, gli fa parlare le lingue differenti, bla bla, eccetera. Sapete tutti che poi succede nell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento invece poi succede il contrario, no? Dopo che tutti capiscono la stessa lingua. Dove? Quando? Nel Nuovo Testamento, quando è che? Qual è l'episodio in cui a questo punto diciamo capiamo le lingue? Ah, la storia dello spirito di qualcosa. La Pentecoste. La Pentecoste, sì. Quando la Madonna si riunisce con i 12 apostoli, con i discepoli di Cristo, sì, esatto, subito dopo la morte, dopo un po' dopo la morte di Cristo, stanno tutti insieme in una stanza, lo Spirito Santo discende su di loro, nella iconografia ufficiale si vede la colombina in alto dove fa lo Spirito Santo, e sulle teste della Madonna e degli Apostoli ci sono dipinte delle fiammelle che simboleggiano, diciamo, l'azione dello Spirito Santo su questi, ma la cosa fondamentale è che a un certo punto si mettono tutti a parlare lingue differenti che non conoscono e si capiscono gli uni con gli altri. Quindi è la Pentecoste è il contrario della Torre di Babele, cioè realizza il processo inverso, dopo che c'è stata la divisione delle lingue, eccetera, eccetera. E quindi c'è questa idea delle lingue. Allora, torniamo alla linguistica dell'Ottocento. Nell'Ottocento succede quindi che alcuni studiosi di lingua notano una serie di somiglianze nel lessico e nella sintassi intanto di tutte le lingue parlate in Europa, tutte o quasi tutte, e scoprono che alcune molti elementi tipici delle lingue europee, germaniche, slave, latine, neolatine, tutte quante insieme hanno anche certi rapporti con le lingue, con altre lingue come il persiano e l'indiano, e quindi formulano l'idea di una grande famiglia linguistica chiamata delle lingue indo-europee, e fanno, però c'è sempre questa idea dell'origine, per cui dicono, quindi ci deve essere stata sicuramente a questo punto una unica lingua, c'è una mitica, di cui però naturalmente non c'è nessun documento, nessuna cosa, c'è il sanscrito, loro usano il sanscrito, cioè la forma arcaica dell'indiano moderno, dell'indi moderno, poi in realtà in India si parlano, come sapete, una quantità di lingue indescrivibile, 50-60, ma quella, diciamo, quella più grossa è l'hindi, hindi intesa non come etichette di musica indipendente, ma hindi, H-I-N-D-I, l'hindi, la lingua hindi. E quindi dicono, e si mettono a cercare, a ricostruire questa mitica lingua indo-europea, con delle robe anche buffe, perché insomma quando uno si mette a cercare una cosa di cui non ha nessun documento, succedono delle cose, quindi perdono un po' di tempo, insomma. Poi insomma nel 900 qualcuno si accorge che stanno perdendo tempo, e uno di questi linguisti, che comunque anche lui studiava l'indoeuropeo, eccetera, eccetera, un signore svizzero che si chiamava Fernandez Saussure, invece comincia a si inventa, insomma, o comunque si mette ad insegnare nei suoi corsi una lingua, un modo, insomma, diverso di intendere la lingua, anche questo molto più universalistico, ma andando più alla radice delle cose, alla sostanza, e dà origine a quella che poi si chiamerà nel Novecento la linguistica strutturale. Quindi, ed è quello che poi Chomsky proseguirà, insomma, da un punto di vista... Nel Novecento poi c'è, insomma, come dire, il circolo più importante, il circolo linguistico, cioè uno dei gruppi più importanti del cosiddetto circolo linguistico di Praga, formato da praghesi, ma soprattutto da esuli, per esempio, russi, cioè Jakobson e Trubetskoy, che sono gli esponenti più importanti. Questo circolo linguistico di Praga entra in contatto col circolo di Vienna, che era invece un circolo più filosofico, quello con Popper, Wittgenstein, Popper arriva dopo, insomma, Wittgenstein, Schlick, eccetera, eccetera. Insomma, e poi c'è il grande sviluppo della linguistica americana, che avviene prevalentemente in connessione con l'antropologia. Ed è importante la linguistica nordamericana, cioè statunitense, naturalmente perché c'è siamo nella seconda metà dell'Ottocento e primi anni del Novecento, c'è la catalogazione di una quantità di lingue che stanno scomparendo, che sono le lingue dei nativi americani, molte delle quali sono già scomparse quando loro cominciano a, come dire, studiarle, perché l'area linguistica del Nord America era una delle più ricche, dal punto di vista, parlavano moltissime lingue abbastanza diverse anche tra loro, la gran parte delle quali però erano imparentate più o meno con la lingua degli eschimesi o degli Inuit, quindi con questa famiglia linguistica, insomma. E poi quindi comincia i colinguisti anche più tradizionali smettono di cercare questo fantomatico indo-europeo comune che non hanno mai trovato, perché non è mai esistito. Però insomma, quindi si precisano le grandi famiglie linguistiche mondiali, che sono le lingue indo-europee, le lingue uralo-altaiche, le lingue sino-tibetane, quelle cinesi, sono quelle parlate nell'estremo oriente, e poi le lingue e la famiglia degli eschimesi, sono varie, poi altre famiglie, complicato. E poi dopodiché negli anni 50 arriva Chomsky, che formula questa teoria che vi ho detto prima della grammatica universale, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, io volevo leggere qualche cosa di un linguista americano che si chiama Edward Sapir. Il libro si chiama Il linguaggio, ma non lo trovate più in giro perché è fuori commercio da un sacco di tempo, però se volesse, se avete voglia, quindi non l'ho messo neanche nelle bibliografie, insomma. Sepir è un bel esempio di questa, diciamo, contaminazione tra linguistica e antropologia, perché ha studiato anche, ha fatto anche dei lavori antropologici, insomma. Scrive più o meno negli anni 30, insomma. Questo libro è del 1921. Praticamente è l'unico libro che abbia scritto questo Sepir. Language, an introduction to the study of speech. Gli inglesi hanno due parole diverse per il linguaggio, che è language e speech. Speech è la parola speech, è la parola parlata, to speak, speech, discorso, nel senso di, mentre language è il discorso più, diciamo, generale. Non è esattamente la stessa distinzione che fa Saussure, comunque questo semmai ci torneremo, tra lang e parola, però. Allora, comunque questo è un bel testo, è un bel libro, insomma, perché in breve, è un libro, diciamo, divulgativo, insomma, parte da una definizione della lingua, poi parla degli elementi del linguaggio, dei suoni, dice che i suoni non sono gli elementi veri e propri del linguaggio, cioè definisce giustamente il linguaggio, l'essenza del linguaggio sta nel rapporto tra i suoni e il diciamo, sistema, chiamiamolo, di significati, per usare il termine di Saussure. Beh, io non vi faccio la semiottica, perché suppongo che già tu la sappia un po', insomma, significato, sì. Queste robine qua sono più... Vabbè, si potrebbe andare molto più oltre, ma insomma. Poi dice la forma della lingua, fa due capitoli sulla forma della lingua, quindi sui processi grammaticali, spiega che i processi formali non sono esattamente collegabili con funzioni grammaticali, bla bla bla, poi fa tipi di struttura linguistica e poi fa due capitoli sulla lingua come prodotto storico, quindi sul fatto che la lingua evidentemente è il prodotto storico della lingua, lui lo chiama la deriva. Deriva è la traduzione del termine inglese drift, che vuol dire quando c'è qualcosa che non è che si sviluppa secondo un sistema molto ordinato, ma a volte scarta, scantona, va per altre vie, insomma, come alla deriva, si dice andare alla deriva al mare. Volevo leggere questa cosa perché qui affronta questo Sepir un problema che mi pare centrale poi per quello che dovremmo dire dopo sulla questione del rapporto tra parola e immagine, e cioè il rapporto tra il pensiero e il linguaggio. Allora, il rapporto tra il pensiero e il linguaggio è un rapporto problematico, complicato, complesso, che ancora oggi è oggetto di discussione tra i linguisti, cioè tra quelli che studiano le lingue dal punto di vista, diciamo, tecnico, tra i filosofi del linguaggio, quindi tra i filosofi che si occupano del linguaggio, e tra i biologi che si occupano di teoria dell'evoluzione, di storia della specie dal punto di vista evoluzionistico. Formulato nel suo modo più semplice, il problema dei rapporti tra pensiero e linguaggio è riassumibile così. Esiste un pensiero senza il linguaggio? Può esistere un pensiero non linguistico? O il pensiero è inevitabilmente legato con la dimensione linguistica? È evidente che la risposta che si dà a questa domanda dipende da cosa si intenda con il termine pensiero. che è il termine più difficile tra i due da definire, mentre un termine di linguaggio, grosso modo, almeno una certa base fenomenica ce l'abbiamo, sappiamo più o meno cos'è il linguaggio, ma da un punto di vista invece il pensiero non sappiamo bene che cosa sia. E forse abbiamo anche delle difficoltà a, diciamo, definire. Però vediamo come affrontava, quindi, tanti anni fa, nel 1921, questo problema Sapir. Ve lo leggo così. Per i filologi sono alla pagina 13 dell'edizione italiana, che è un Einaudi del 1969. Si è spesso sollevato il problema se il pensiero sia possibile senza il linguaggio, o addirittura se il pensiero e il linguaggio non siano due facce dello stesso processo psichico. Il problema è tanto più difficile in quanto è stato circondato da una barriera di equivoci. Prima di tutto occorre osservare questo: sia vero o no che il pensiero ha bisogno di un sistema simbolico, cioè del linguaggio, il linguaggio nel suo fluire non rimanda sempre a un sistema di pensiero. Abbiamo visto che ogni elemento linguistico, tipicamente, è l'etichetta di un concetto. Ma da questo non consegue che l'uso della lingua sia sempre o anche prevalentemente di tipo concettuale. Nella vita comune noi non ci preoccupiamo di concetti, tanto quanto di particolari concreti o di relazioni specifiche. Per esempio, quando io dico oggi ho fatto un buon pranzo, è chiaro che io non sto lottando con un difficile e oscuro concetto. Quello che voglio trasmettere è poco più che un ricordo piacevole, che io trasmetto simbolicamente attraverso canali espressivi ormai cristallizzati dall'uso. Oggi ho fatto un buon pranzo. Ogni elemento della frase citata, di questa frase, definisce un concetto particolare o una relazione concettuale o una combinazione di queste due cose, ma la frase nella sua interezza non ha alcuna significanza sul piano concettuale. Oggi ho fatto un buon pranzo, non esprime nessun concetto. Le singole parole, sì, c'è un concetto di oggi, c'è un concetto di pranzo, c'è un concetto di fare, c'è un concetto di buono, bontà, però la frase nel suo complesso non esprime un concetto. Questa situazione, che buffa metafora, assomiglia a quella di una dinamo che genera energia elettrica sufficiente a far funzionare un ascensore e che invece è adoperata quasi esclusivamente per far funzionare il campanello di una porta. Lui sta dicendo in altri termini quello che io vi ho detto prima quando vi ho detto che il linguaggio è sovrabbondante. Diciamo qui è molto simile. Questa analogia implica più di quello che appare a prima vista. La lingua può essere considerata come uno strumento che può essere usato per tutta una serie di usi diversi sul piano psicologico. Esso non si capisce, è tradotto male, si dice la lingua perché dice esso, vabbè, sarà esso, essa, finora ha parlato la lingua, quindi la lingua. La lingua non soltanto fluisce parallelamente al movimento interno della coscienza, ma restando parallelo si muove a livelli diversi, che vanno dalla condizione in cui la mente è tutta occupata da immagini particolari, fino alla condizione in cui la mente è interamente concentrata su concetti astratti e sulle loro relazioni. Quest'ultimo modo di attività è quello che si intende di solito quando si parla di ragionare. Quindi soltanto la forma esterna della lingua è costante. Il suo significato interno, il suo valore o intensità psichica varia liberamente a seconda del tipo di attenzione o del contenuto di riflessione scelti dalla mente. E varia anche, si intende, a seconda dello sviluppo generale della mente. Dal punto di vista della lingua, il pensiero può essere definito come il più alto grado di contenuto, latente ovvero potenziale, del linguaggio, e cioè il contenuto che si ottiene interpretando ciascuno degli elementi della lingua come avente il suo pieno valore concettuale. Da ciò consegue che lingua e pensiero non sono entità esattamente sovrapponibili. Allora, fin qui va bene, però adesso poi vediamo perché c'è qualche equivoco in una espressione di questo tipo. Tutt'al più la lingua può essere l'aspetto esterno del pensiero più alto. Tutt'al più la lingua può essere l'aspetto esterno del pensiero al più alto e più generale livello di espressione simbolica. Da un punto di vista lievemente diverso, possiamo dire che la lingua è primariamente una funzione pre-razionale. pre-razionale, viene prima della ragione. La lingua, per così dire, lavora umilmente per essere all'altezza di quel pensiero che è latente in essa e che può, a conclusione di un lungo processo, essere individuato nelle sue classificazioni e nelle sue forme. Ma non è, come si pensa ingenuamente di solito, l'etichetta posta come atto conclusivo sulla forma più completa del pensiero. Alla domanda se si possa pensare facendo a meno del linguaggio, la maggior parte delle persone probabilmente risponderebbero sì, ma non è facile farlo, eppure so che si può fare. Insomma, la lingua non è che un ornamento. Ma, e se la lingua fosse invece piuttosto che un ornamento, una strada o un binario già ben preparato? In verità sembra assai probabile che la lingua sia uno strumento originariamente impiegato per usi più bassi del livello concettuale e che il pensiero sorga come raffinata interpretazione del suo contenuto. Ah, adesso qui ci siamo già messi. In altri termini, il prodotto cresce insieme con lo strumento e può darsi che nella sua genesi e nel suo uso quotidiano il pensiero senza il linguaggio sia altrettanto inconcepibile che il ragionamento matematico svolto senza il supporto di un simbolismo matematico adeguato. Nessuno pensa che anche la più difficile delle proposizioni matematiche sia intrinsecamente dipendente dall'esistenza di un sistema arbitrario di simboli, ma è impossibile sostenere che la mente umana sia capace di arrivare alla formulazione di una proposizione di questo tipo e di ritenerla una volta formulata senza l'aiuto di questo sistema di simboli. Quanto a chi scrive, Modesto, Sepir, la sua profonda convinzione a questo riguardo è che l'impressione che molti hanno di poter pensare o addirittura ragionare senza la lingua sia un'illusione. Questa illusione sembra dovuta a vari fattori. Il più semplice tra questi fattori è la mancanza di distinzione tra immagine e pensiero. Capite perché vi ho detto cosa? Perché c'è il termine immagine, poi dopo vedrete che... Allora, questa illusione sembra dovuta a vari fattori. Il più semplice tra questi fattori è la mancanza di distinzione tra immagine e pensiero. In effetti, appena noi tentiamo di stabilire una consapevole relazione tra un'immagine e un'altra, ci accorgiamo che stiamo scivolando in un flusso di parole silenziose. Può essere che il pensiero sia un'area naturale separata dall'area artificiale del linguaggio. Tuttavia il linguaggio sembra essere l'unica via a noi nota che conduca a questo dominio del pensiero. Una fonte ancora più importante della precedente, della sensazione illusoria che per quanto riguarda il pensiero si possa fare a meno della lingua, è un fenomeno diffuso, cioè la mancata comprensione del fatto che la lingua non si identifica col suo sistema simbolico uditivo. Il simbolismo uditivo può essere sostituito elemento per elemento da un sistema simbolico motorio o visivo. Per esempio, molte persone possono leggere in modo puramente visivo, cioè senza bisogno del legame costituito dalla corrente interna di immagini uditive corrispondenti alle parole parlate o scritte. Oppure la stessa sostituzione può avvenire per mezzo di altri tipi di spostamento, più sottili ed elusivi, che sono difficili da definire. Quindi l'affermazione che uno pensa senza bisogno della lingua, semplicemente perché non è consapevole del complesso di immagini uditive che coesistono con il suo pensare, è un'affermazione molto lungi dall'essere valida. La frase è contorta, ma significa. Quindi non è vero che si pensa senza bisogno della lingua perché non siamo consapevoli del complesso di immagini uditive che coesistono con il pensiero. Si può arrivare a sospettare che l'espressione simbolica del pensiero possa in alcuni casi scorrere fuori dai confini dell'attività mentale cosciente, cosicché l'impressione di un flusso di pensieri libero ed extralinguistico è, per quanto riguarda un certo tipo di intelligenza, un'impressione relativamente, ma solo relativamente, giustificata. Vedete che si sta barcamenando, perché per un po' dice no, non è possibile, poi dice ma forse per alcuni casi potrebbe essere possibile. Da un punto di vista psicofisico, lo svolgersi di un processo come quello descritto significherebbe questo. I centri uditivi o gli equivalenti centri motori o visivi del cervello insieme con i canali associativi appropriati che costituiscono l'equivalente cerebrale del linguaggio, sono durante il processo intellettuale stimolati così leggermente da non giungere affatto alla consapevolezza. Questo sarebbe un caso limite. Il pensiero che corre agilmente sulla cresta delle onde del linguaggio, invece che andarsene piano piano sotto braccio con lui. La psicologia moderna ci ha già mostrato quanto importante sia l'attività simbolica che si svolge nell'inconscio. Grazie a questo oggi è più facile di quello che fosse 20 anni fa capire che anche il pensiero più rarefatto può essere nient'altro che l'equivalente conscio di un simbolismo linguistico inconscio. Se pensate che questa cosa qua è stata scritta nel 1921 e Ido Alseppi non era consapevole che alcuni decenni dopo sarebbe uscito un giovane psicanalista francese di nome Jacques Lacan a dire esattamente questa cosa, cioè che l'inconscio è strutturato come un linguaggio. Tesi discutibile, però qua Sapir l'ha adombra già 40 anni prima che Lacan la formulasse. Vorremmo dire qualche parola ancora sulla relazione tra lingua e pensiero. Il punto di vista che abbiamo sviluppato non preclude affatto la possibilità che lo sviluppo del linguaggio dipenda in grande misura dallo sviluppo del pensiero. Possiamo ipotizzare che la lingua sia sorta in modo prerazionale, benché non sappiamo esattamente in quale modo o a che livello precisamente di attività mentale. Tuttavia non dobbiamo immaginarci per questo che un sistema altamente sviluppato di simboli linguistici si sia sviluppato prima che sorgessero i concetti distinti e il meccanismo necessario per usare questi concetti, cioè il pensiero. Dobbiamo pensare piuttosto che processi intellettuali agirono come una sorta di traboccamento psichico, è sempre la ridondanza qua, traboccamento psichico, quasi all'inizio della genesi dell'espressione linguistica. Inoltre dobbiamo pensare che il concetto, una volta che fu definito, certamente influì sull'esistenza del simbolo linguistico che lo rappresentava, incoraggiando così nuovi sviluppi linguistici. Noi ci accorgiamo, in effetti, che questo complesso processo di interazione tra lingua e pensiero si sta svolgendo sotto i nostri occhi. Lo strumento rende possibile il prodotto, e d'altra parte il prodotto porta a perfezione lo strumento. La nascita di un nuovo concetto è sempre anticipata da una maggiore o minore tensione o allargamento di materiale linguistico vecchio. Il concetto non giunge ad avere un'esistenza individuale e indipendente sino a che non abbia trovato una ben distinta realizzazione linguistica. Non so se avete familiarità con l'espressione trascendentale in Kant. Se no è meglio che non faccio questo esempio, facciamone un altro che possa essere più semplice. Quando Platone arriva a teorizzare la conoscenza come ricordo, come memoria, e dice conoscere è soltanto ricordare ciò che la nostra anima ha visto nel mondo del plurale, eccetera, eccetera, è difficile che lui avesse ben chiaro il concetto prima di avere formulato l'equivalenza tra due parole, conoscenza e memoria, conoscenza e ricordo, no? Cioè, è solo quando crea una relazione tra queste due cose che il concetto si chiarisce. Questo che vuol dire, lui dice, il concetto non giunge ad un'esistenza individuale e indipendente sino a che non abbia trovato una ben distinta realizzazione linguistica. Soltanto quando Platone riesce a formulare la frase la nostra conoscenza attuale è il ricordo di una conoscenza passata della nostra anima, certo, che il concetto si precisa. Finché non trova la frase buona, il concetto non è ancora precisato. Nella maggior parte dei casi il nuovo simbolo è semplicemente un'entità formata con materiale linguistico già esistente, cioè una frase, per esempio, fatta con delle parole che esistevano già. E i modi di questa formazione sono precostituiti da precedenti che possiamo dire ferocemente dispotici. Le parole sono quelle in una lingua, è difficile cambiarle, cioè creare neologismi è sempre un'azione tanto collettiva, poi lunga, insomma, magari arrivano, però c'è una preparazione, quasi mai uno può essere lui che si inventa una parola totalmente nuova. Appena abbiamo la parola noi sentiamo istintivamente con qualcosa di simile al sollievo che possiamo maneggiare il concetto, ma fino a che non possediamo il simbolo noi non abbiamo la sensazione di avere la chiave necessaria all'immediata conoscenza e comprensione del concetto. Saremo pronti a morire per la libertà? a lottare per i nostri ideali se le parole stesse non risuonassero dentro di noi? E come noi sappiamo bene, la parola non è soltanto la chiave, può essere anche una catena. Allora, ho letto questa cosa perché a me pare, questo è sempre uno dei, come dire, linguisti che io apprezzo di più, è uno di quelli che più chiaramente di altri ha formulato un'ipotesi relativistica, quindi anti-universalistica sul linguaggio, poi magari ve ne parlerò in un'altra, diciamo, occasione, ma ho tirato fuori questo tema del pensiero linguaggio e questo il modo in cui lui, diciamo, lo tratta, perché mi pare che gran parte delle conclusioni, anche se molto sumate, a cui lui giunge siano condivisibili, o perlomeno io personalmente le condivido. E anche perché questa idea che sia possibile avere, insomma, che il pensiero sia relativamente indipendente dal linguaggio, è un'idea che si è fatta strada, cioè si sta diffondendo in questi anni molto più di prima, cioè io non so bene perché, ma diciamo, registro che nelle cose che leggo, nelle cose e allora però questo probabilmente dipende da un equivoco proprio sul termine pensiero e su che cosa sia un, come dire, pensiero. Allora, sbaracciamoci dell'equivoco, io non voglio affatto sostenere che con il termine pensiero si debba intendere una sistemazione razionale di concetti, può anche non essere molto razionale, è chiaro che un pensiero può essere, però a me mi risulta difficile associare la parola pensiero, per esempio, al puro moto di sollievo, gioia, sorpresa, quando, per esempio, vedo, incontro una persona cara, a cui voglio bene in qualche modo, che non vedevo da un po' di tempo. La mia reazione immediata, ed è qualcosa che riempie la mia mente, non c'è dubbio, no? Io sono cosciente, sono consapevole, provo, c'è un moto che è un sentimento, una emozione, quello che sia. Ora, io trovo che sia inappropriato e probabilmente anche sbagliato però dire che l'emozione e i sentimenti sono pensiero. Allora, sicuramente, il momento preciso in cui io incontro, adesso ho costruito questa, come dire, situazione immaginaria, cerco di portare avanti l'esempio su questo. Allora, io vedo questa persona, cammino per la strada, incontro questa persona che non vedevo da molto tempo, a cui sono legato, comunque a cui voglio bene, o a cui ho comunque voluto bene, in qualche maniera, un mio amico, una mia ex fidanzata con cui non mi sono, diciamo, separato in maniera, da cui non mi sono separato in maniera traumatica, eccetera, eccetera. Sicuramente io ho una reazione immediata che è che io direi sarebbe giusto classificare come emozione, no? Poi ci sarà una produzione verbale, magari passano pochissimi secondi o decimi di secondo, ma sono cose distinte. Ah, ciao, come stai? Ah, che sorpresa, ah, ma sei tu, una cosa qualunque, no? Nel momento in cui, nell'intervallo di tempo che passa tra questa prima emozione e la mia produzione verbale, sicuramente di mezzo c'è un pensiero. Io avrò pensato qualche cosa, però non mi sento di identificare il pensiero con quella prima, diciamo, reazione emotiva. L'emozione direttamente non è un pensiero, anche se si può accompagnare ad una sorta di verbalizzazione, diciamo, silenziosa. Perché io posso ricordare una frase che mi ha detto questa come dire, persona, o posso anche far risuonare nella mia mente, in maniera totalmente inconsapevole, delle parole o delle qualche cosa di collegabile con un linguaggio, ma l'emozione in quanto tale, secondo me, non è un pensiero. Il pensiero si ha soltanto quando io su questa emozione costruisco una sorta di rappresentazione. L'emozione non, nell'atto specifico dell'emozione non c'è alcuna rappresentazione, non si rappresenta nulla, è un dato, uno stato di cose immediato del mio essere, no? Che non comporta una rappresentazione. Io dico che c'è un pensiero, questo pensiero può essere: ah, ma è lei, ah, ma è lui, oh, quanto tempo. Parole, cose silenziose che dico. Allora, se faccio una cosa di questo tipo, questo è un pensiero, certo, ma non è l'emozione, è qualcosa che viene contemporaneamente, ma qualche millesimo di secondo dopo il puro e semplice atto dell'emozione. Allora, quel pensiero è difficile concepirlo senza delle parole, senza un linguaggio. Allora, per dirla in altri termini e per spiegare perché ho fatto questo esempio, io troverei sbagliato chiamare pensiero tutto ciò che occupa la mia mente in un dato momento. La mente può essere occupata da qualcosa di diverso da un pensiero. E questo qualcosa di diverso, che è quello che sicuramente ci accomuna alle altre specie animali, perché tutti gli animali si emozionano, hanno paura, provano dolore, ma anche gioia, ma anche sorpresa, ma anche, cioè, la gran parte della gamma delle emozioni più semplici e, come dire, primarie sono comuni più o meno a tutto il mondo animale, con la solita eccezione per le forme di vita meno complesse. Non lo so se un lombrico si sorprende, ma forse sorprende pure lui, perché quando incontra un ostacolo, eccetera, eccetera, insomma, anche la lumachina che tira fuori, ma sicuramente, ma insomma, parliamo almeno di mammiferi, uccelli, pesci, eccetera, insomma, forme di vita abbastanza complesse. L'emozione noi la condividiamo, questi. È difficile però che noi condividiamo, probabilmente non condividiamo il pensiero, non c'è un pensiero negli animali. Allora, i contenuti, prima considerazione, ciò che occupa la nostra mente, cioè i contenuti mentali, sono più ampi, più larghi, sono maggiori, ci sono più cose che non il pensiero, non sono riconducibili al pure semplice pensiero. Il pensiero è soltanto uno tra i possibili contenuti mentali. Allora, sicuramente è sbagliato dire che i contenuti mentali sono tutti collegati con il linguaggio. Sicuramente ci sono contenuti mentali che non sono collegati con il linguaggio, non direttamente, ma perlomeno negli esseri umani, quello che noi chiamiamo pensiero, cioè l'attività, se definiamo come pensiero l'operazione di rappresentazione, cioè di costruzione di qualcosa di doppio rispetto all'immediatezza dell'esperienza, che noi costruiamo su una condizione anche mentale più di base, come per esempio l'emozione, se chiamiamo pensiero la rappresentazione di altri contenuti mentali di ordine meno complesso, io non credo che sia possibile un pensiero in questo senso senza, cioè, che non sia accompagnato dal linguaggio. Mi faccio un'obiezione da solo, così vediamo se la cosa regge. È vero che gli uomini hanno tutti la capacità di parlare, però gli esseri umani non parlano sino dalla nascita. A parlare si impara, non c'è dubbio. Quindi esiste una breve fase della vita degli esseri umani, la fase che va da 0 a 12 mesi, 11 mesi, 18 mesi, insomma, grosso modo, che è la fase di apprendistato del linguaggio, in cui sicuramente il bambino di 6 mesi non ha il, come dire, linguaggio, sicuramente ha le emozioni, ha degli affetti, ha una capacità, una predisposizione di se stesso a come dire, relazionarsi con altre persone a preferenza di altre, per esempio con quella che vede più spesso, con la mamma, eccetera, eccetera, probabilmente anche se non la vedesse così spesso, perché ha una come dire, ha avuto un commercio, ha avuto una relazione con questo essere umano che è la sua mamma molto lunga, quando stava nella fase di sviluppo fetale, quindi evidentemente. Ma sicuramente dobbiamo dire che un bambino non parla, che un bambino non pensa. Sono molto dubbioso che si debba dire che un bambino non pensa. Probabilmente invece il bambino, anche prima dell'anno di età, comincia già ad avere una funzione rappresentativa. È in grado, in maniera molto vaga, non cosciente, non auto, come dire, consapevole, ma qualche c'è un sistema di, c'è già anche nel bambino piccolo un sistema di aspettative, non solo attaccarsi alla poppa o al biberon quando ha fame, ma probabilmente ha già una, quindi qualche attività che può essere anche embrionalmente definibile come pensiero c'è. E allora cosa, come la mettiamo? Questa è l'obiezione che mi si può fare. Comunque anche una persona che non ha imparato. Allora, l'obiezione che si può fare è: anche un bambino pensa prima ancora di aver imparato a parlare, allora c'è un pensiero senza un linguaggio. Oppure tu dici, certamente il bambino, sono pochi casi, ma ci sono documentati, no? Kaspar Hauser, il ragazzo selvaggio, insomma, della Verona, esseri umani che sono sopravvissuti, però non sono cresciuti in un ambiente umano, quindi non hanno imparato a parlare, non perché non avessero le capacità, ma perché si impara a parlare soltanto quando si è esposti a una serie di come dire, eventi verbali, e sono quelli che poi innescano nella nostra mente il meccanismo per cui noi impariamo un certo linguaggio e una certa lingua. E però allora la mia risposta è questa. È vero, ed è coerente con quello che vi ho detto all'inizio della, diciamo, lezione. Non è che non esista neanche in altri animali una funzione simbolica o rappresentativa, esiste anche in altri animali, ma meno sviluppata, e quindi con delle conseguenze meno globali come c'è negli uomini con il linguaggio. Quindi sicuramente esiste anche nel bambino. Quindi anche il bambino, magari tra mille virgolette, pensa, certo. Quindi il pensiero, per essere più chiari, moderata, una limitata attività di rappresentazione esiste anche prima del linguaggio. Quindi sicuramente si può dire in qualche maniera che il bambino pensa anche prima di aver imparato a parlare. Pensa, o se anche dall'altro dalla madre, quando comincia a capire che è separato dalla madre. Può anche essere così, va bene, sì, può anche essere che sia questo. Ok, ma adesso voglio dire, non lo decidiamo, può essere di sì, può essere di no, ma può essere di sì. Basta il fatto che sia possibile, diciamo, va bene, accettiamo questa ipotesi. Quello che io sostengo però è che anche se è possibile in qualche modo parlare di un pensiero limitato ed embrionale in assenza del linguaggio nella fase di formazione, cioè di apprendimento degli esseri umani, della loro abilità linguistica, questo diventa impossibile una volta che il linguaggio sia stato appreso. Una volta che abbiamo imparato a parlare, non c'è dubbio che tutte le precedenti embrionali capacità di rappresentazione che avevamo quando eravamo piccoli, quando eravamo bambini, prima di parlare, viene in qualche maniera assorbita, traslata dentro alla macchina linguistica, dentro al dispositivo linguistico. Una volta che io ho imparato a parlare, non uso altri strumenti, anche interni, per rappresentare, perché il linguaggio è di gran lunga il più sviluppato e il più potente per questi strumenti di rappresentazione che ho. E quindi, per forza di cose, se anche per una breve fase della mia vita sono stato capace di rappresentare e magari embrionalmente addirittura di autorappresentarmi, anche se sono molto molto difficile alto, ma insomma sicuramente di rappresentare qualche cosa, di costruire embrionalmente, no, dei doppi mentali, quindi di fantasticare, di come dire, prevedere l'arrivo della mamma, di desiderare l'arrivo della mamma, sono tutte le robe che sono collegate in genere sempre con la mamma, perché evidentemente la presenza fondamentale nella vita del bimbo, questo è ovvio. Quindi sicuramente il bimbo pensa, nel senso fa tutte le, forse, forse pensa, cioè forse, come dire, prevede, forse si aspetta, forse, e quindi fa qualcosa di più di avere delle semplici emozioni. E per una breve fase della sua vita lo fa senza il linguaggio, perché non ha ancora imparato, ma man mano lo sta imparando. Ma nel momento in cui lo ha, diciamo, appreso, cioè tra il primo e il secondo anno di vita, quando mette il bambino, grosso modo padroneggia perfettamente il linguaggio dopo il secondo anno di vita, cioè ci mette un anno di, grosso modo, dimmi tu se tu che hai esperienza, dimmi tu se sbaglio, grosso modo nel primo anno è il periodo di, diciamo, latenza, accumula materiale e intanto comincia. Dal primo al, diciamo, secondo anno, perfeziona gli strumenti di comprensione e comincia a elaborare gli strumenti di produzione con verbale. Alla fine del secondo anno, grosso modo, massimo al secondo anno e mezzo, parla già, parla come una persona adulta, parla già, ha meno parole, eccetera, eccetera, però la sua, diciamo, padronanza del dispositivo linguistico è già completa. Allora, diciamo, a quel punto, quando un essere umano, un bambino, quindi ha a propria disposizione questo strumento rappresentativo, questa macchina, questo dispositivo rappresentativo, a quel punto è difficile che pensi senza parlare, cioè il linguaggio a quel punto si è e perché dico questo? Perché dico appunto che, diciamo, il punto fondamentale mi pare che tutte le precedenti strategie, modi, chiamiamoli, di rappresentare prelinguistici che aveva, per il solo fatto che il linguaggio ci sia, sono stati assorbiti dentro il linguaggio. Se è vera questa ipotesi che faccio io, questa potrebbe essere chiamata una sorta di funzione di saturazione del linguaggio, cioè diciamo, potremmo chiamarlo anche con un termine un po' più brutto, ma però il totalitarismo, diciamo, il linguaggio è totalitario. Una volta che c'è, non lascia, cioè ha la, come dire, tendenza ad occupare stabilmente tutto lo spazio, come dire, mentale, disponibile. E quindi non lascia delle cose, ci sono delle cose prelinguistiche che rimangono anche dentro il col linguaggio, certo. Tutto il lavoro che hanno fatto. Il corpo, ma anche dentro il linguaggio, tutto, se voi pensate a tutto il lavoro che ha fatto, diciamo, la corrente simbolista, sì, nella poesia francese, da, come dire, Mallarmé, per arrivare poi ad Artaud, che è quello che lo ha fatto esplodere, no? le glossolalie, sono tutte robe, quello è il sintomo di una esplosione del linguaggio, e quello è la rivelazione di tutto il materiale, la dimensione prelinguistica che sta dentro, che sta dietro il linguaggio, no? Che c'è. Ma cioè, questi sono casi un po' particolari, si possono fare, quindi sicuramente questo c'è. Non voglio dire che non ci sia più nulla di prelinguistico o di non linguistico, ma una volta che il linguaggio c'è, esso tende ad assorbire tutte le attività, diciamo, mentali complesse di rappresentazione, quindi che non siano le pure e semplici emozioni, i puri e semplici movimenti immediati dell'animo, gioia, dolore. La gioia, il dolore, eccetera, possono avere una esistenza non linguistica, ma il pensiero no. Io la vedo così, perché, ripeto, il linguaggio è saturante e totalitario, onnicomprensivo, cioè tende ad occupare tutto lo spazio, come dire, disponibile. Chiudo dicendo questo. Paradossalmente, alcuni di coloro che oggi sostengono invece la... prima dico questo. Allora, quindi secondo me è da respingere ogni concezione che veda il linguaggio praticamente come una specie di vernice. Una specie di? Vernice che si dà sopra il pensiero. Cioè il pensiero ci sarebbe già, io penso in termini non linguistici, poi arriva il linguaggio, certo, e con il linguaggio io metto a posto, rendo migliore, più sistematico qualche cosa che c'era già prima, e questo sarebbe il pensiero. Questa è una concezione, diciamo, per questo dico, il linguaggio come verniciatura, come belletto di qualcosa che c'è già, che come dire, sarebbe il pensiero. Guardate, casualmente, non è un caso secondo me, che questa concezione oggi sia sostenuta da molti dei sostenitori di quelle tesi che vi ho detto prima, della concezione algoritmica del linguaggio, della concezione denotativa, della ipotesi dell'universo computazionale. Nel momento in cui io, come dire, immiserisco il linguaggio, cioè lo riduco a una serie di formulette, per quanto complesse, cioè già, ma si può sempre trovare un algoritmo che descriva la grammatica, eccetera, eccetera. In qualche modo questa gente però sa bene che gli esseri umani sono ben più complessi di un algoritmo. Allora cosa fanno? Fanno una cosa però che è idealistica di fondo, cioè trasferiscono questa cosa, la tolgono dalla dimensione linguistica e la mettono in questa cosa misteriosa chiamata pensiero. Diciamo, no, ma l'uomo pensa, certo. Certo, dice, il linguaggio non c'entra con il pensiero mentale, il linguaggio è solo il modo in cui questo, virgolette, pensiero viene sistemato. Allora, e io vedo un parallelo tra la loro sottovalutazione del linguaggio, in quanto, perché loro lo sottovalutano, come dire, dicendo che è un algoritmo, dicendo che è algoritmizzabile, dicendo che è meccanizzabile, insomma, detto fuori dai denti, questo vuol dire, è meccanizzabile. Quindi c'è una corrispondenza tra questa sottovalutazione col linguaggio e l'idea che il pensiero sia una qualche sorta di processo misterioso, è misterioso, perché se tu non identifichi il pensiero con il linguaggio, se tu non dici è il pensiero, una volta che si sia stabilito e insediato, è il pensiero che è con il linguaggio che crea il pensiero, cioè non è possibile pensare senza linguaggio, anche senza parlare, ma anche quando si pensa tra sé e sé, si parla sempre, si usano le parole, si usano strumenti linguistici, non costruendo le frasi. Quando una persona magari sta tanto tempo in un altro paese, pensa nella lingua, non nella propria lingua. No, pensa nell'altra lingua, certo. Quindi questo è un altro buon argomento per sostenere che non è vero che sono così. Allora, quelli che pensano questo, quindi devono per forza di cose rifugiarsi nella idea, però lo fanno in maniera grottesca, perché che cosa fanno? Violano quello che diciamo la ragione di Occam, cioè devono introdurre un'altra sostanza chiamata pensiero, distinta dal linguaggio, ma sulla quale non hanno alcuna spiegazione, non hanno alcuna, cioè devono presupporre che c'è qualcosa che misteriosamente la mente pensa senza il linguaggio, e poi il linguaggio arriva solo nell'ultima fase per metterla a posto, per, come dire, sistemarla. Come viene questa cosa al momento informe? poi attraverso il linguaggio lo traduco, sì, e lo brava, butto fuori. Sì. Invece sono talmente impregnata di questo linguaggio che mi struttura talmente tanto che è già linguaggio quello che penso. Esattamente, esattamente. E... è così. E invece loro pensano che ci sia questo, sì, lo chiamano pensiero, cosa che viene, esatto, prima, che viene prima, ma non hanno, esatto, nessuna... ma non c'è, certo, non hanno prove, non solo non hanno prove, ma non è neanche plausibile che sia una cosa, cioè non ci sono, anzi tutte, come dire, è molto più probabile ed è molto più coerente con tutto quello che sappiamo degli esseri umani, quindi il pensare invece che il pensiero sia coesistente al linguaggio. Grosso modo è quello che con molte cautele, però diceva anche già Sapir nel 1921. Va bene, direi che facciamo ancora una lezione in gennaio sul, diciamo, la prima dopo le feste, ancora su alcune questioni del linguaggio, e poi abbandoniamo il tema sulle teorie, cose del linguaggio, a meno che tu non abbia delle cose da chiedermi, o anche tu o chiunque arrivi, eccetera, cose che non avete capito quando mettete a posto i vostri appunti, e se no io poi faccio un'ultima lezione sulla questione del linguaggio, perché vorrei chiarire meglio la questione del rapporto tra linguaggio ed evoluzione con questo libro di Pennisi e Fortuna Soldini, che non ho messo, no, questo forse l'ho messo anche in bibliografia, il Sapir no, ma non posso, c'è Pennisi e Falzone, forse sì. Cos'è il prezzo del linguaggio? Il prezzo del linguaggio, cioè. No, ho l'immagine, programmativa morale, concetto pratica. Non c'è. No, non l'ho messo. Bibliografia. La bibliografia è, non lo so, dov'è, qual è? Questo. No. Obbligatorio no, però. Un po' di là. Ah, ti ho messo Ferretti, però, va bene. È un altro testo, sì, non è quello che uso adesso, no. No, perché ci ho messo questo, ok, prendo questo. Però adesso, perché siccome è uscito dopo questo, uso questo. Questo è quel libro che vi ho detto forse nella prima lezione, se non c'era, che è il libro che sostiene che la specie umana è già condannata all'estinzione per il semplice fatto che parla. Questa è la... No, perché spiego. Quindi dopo vediamo anche questo. Sì, vediamo. Okay. E invece questo qua è uscito dopo quello. No, al contrario. Prima, questo è uscito è uscito poco prima, questo nel 2010, questo nel 2011. Ah, ma è recentissimo. Questo è appena uscito, tesoro. Ah, ho capito. No, 2010 pure questo, ma è uscito dopo questo. E questo invece sostiene? No, non. Allora, è molto simile a questo dal punto di vista dell'impostazione, perché anche lui sostiene un punto di vista neo-evoluzionistico, però non arriva fino a dire questa cosa. Addirittura non so neanche se lui lo cita nella bibliografia, perché poi fra gli studiosi italiani c'è una rivalità terribile, sì, ci sono tremende. Ma controlliamo, che non l'ho manco mai visto. Italiani anche questi. Sì. Allora no, ne cita altri due di questo Ferretti, però lo cita. Però non cita quello, sai perché? Probabilmente perché lo stanno scrivendo insieme. Quindi questo è uscito un po' prima, ma non tanto prima. E quindi quando questi due stanno scrivendo questo, probabilmente questo qui non era ancora scritto, ma no, quindi lo cita, vabbè. Sì, stranamente c'è, questo io non lo sapevo, stranamente c'è una presenza abbastanza forte, abbastanza relativamente forte, di studiosi italiani su questo tema del rapporto tra linguaggio ed evoluzione. Cioè, sicuramente le cose, quelli più importanti sono gli stranieri. Io non ve l'ho. No, non vi ho messo, vi ho messo solamente il terreno. No, questi gli altri sono tutti classici. Jacobson, Saussure, sono tutti classici. Questo di Agamben, perché sulla questione delle immagini. Comunque su Benjamin vi darò delle cose io, perché non posso pensare che li comprate. I passaggi che sono un'opera enorme. Allora, siccome lì poi io uso poche pagine di quel libro lì, probabilmente vi faccio un'antologia io. Intanto chiudo qua.